Pronto? Sì, senti, allora noi abbiamo un po' accennato all'inizio alle ultime, gli ultimi sviluppi, insomma, di questa lotta in calcidica con gli arresti. Allora, se ci vuoi un po' dire cosa è successo questa settimana a Hierissos, che è un paese appunto della zona. Sì, Hierissos è il paese della, della calcidica, di questa zona interessata, che sta più vicino al mare, che sta sul mare, e quindi vive essenzialmente di turismo. E, queste miniere, praticamente questa estrazione che dovrebbe avvenire, distruggerebbe totalmente la zona, questa balneare, oltre all'economia, insomma, della, della zona basata sull'agricoltura. E questi vivono di pesca e di turismo, quindi diciamo che è il paese più incazzato da questo punto di vista. Sono quelli che non c'è nemmeno gente del, del paese che lavorerebbe in, in miniera, per fortuna, da una parte. E, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo benissimo. E niente, le due persone arrestate la mattina del 10 alle 3 di mattina sono di questo paese qua, di Hierissos. I 20 indagati invece erano un po' persone sparse tra tutti i paesi della, della zona, della calcidica. E il niente, la mattina del, del 10, invece di andarli a prendere normalmente, insomma, il giudice o chi per lui, scortato dalla polizia, sono arrivati con le, con le forze antiterrorismo, insomma, con le squadre antiterrorismo, hanno sfondato le porte di queste persone, le hanno prelevati davanti ai loro figli, e sono stati tutti mobilitati, svegliati alle 4 di mattina, sono andati a, a, a, insomma, mostrare la loro solidarietà prima sotto la questura di Polikiros, che è un po' il capoluogo di provincia, e poi li hanno seguiti fino a Salonicco e sono stati lì fino alla sera, praticamente sotto la questura centrale di Salonicco. E adesso io ho sentito da voi che domani c'è questo, domani comunque è domenica, non lo so, che c'è questo colloquio con il giudice. Comunque le accuse sono pesantissime: tentato omicidio, istituzione di organizzazione criminale, incendio doloso, detenzione di esplosivo, sequestro di persona, insomma, sono accuse pesantissime, molto, molto pesanti. Certo, sì, certo. Sì. Senti, questo appunto ricordavamo che è il seguito dell'inchiesta, chiamiamola così, che si è aperta dopo l'incendio al cantiere della, sì, della ditta che dovrebbe effettuare l'estrazione e la lavorazione del minerale, che è avvenuto, sì, a febbraio, se non sbaglio. Sì, mi sembra la, la notte tra, insomma, il 17 febbraio, credo, non ricordo bene la data. È avvenuto di notte, erano una cinquantina, dicono, di uomini e donne anche, perché hanno poi i 20 indagati, tra i 20 indagati c'erano anche delle donne, che sono saliti su armati di fucili da caccia e hanno bloccato le guardie, insomma, del, del cantiere, non, tra, tra l'altro non toccandole. C'era una telecamera ancora in funzione che fa vedere soltanto che li, li tengono da una parte, e niente, hanno dato fuoco a tutto, hanno dato fuoco a tutto quanto. Dopodiché la repressione, insomma, è stata abbastanza violenta, ma c'è un sostegno forte da parte di tutta la, la popolazione. L'hanno dichiarato più volte che questa è un, stata un'estrema conseguenza della, del fatto di voler andare avanti con questa estrazione nonostante il parere contrario di tutte le comunità della zona. I posti di lavoro è una cifra esigua, che dovrebbero, cioè, parlano di 1500 posti di lavoro in 15 anni, quindi rispetto alla zona che c'è una popolazione più o meno di 25.000 abitanti che vivono di altro, di, proprio di altro, tra turismo, pesca, agricoltura, zootecnia, quello che vi dicevo, questa cosa rappresenta il niente. Poi, tra l'altro, lo Stato greco, come aveva detto Yannis tempo fa, non prenderà una lira da tutto questo, cioè l'unico guadagno dello Stato greco sarà dalle tasse dei minatori che andranno ad essere impiegati nella miniera, insomma, perché non hanno diritto a niente dall'estrazione. Uno per una legge sulle estrazioni in Grecia che risale al tempo della dittatura, che non prevede questo, e poi perché appunto la ditta è tutta canadese, tranne il 5% di Bobbola, che è un industriale greco che tra l'altro c'ha pure del maggior azionista della televisione greca, per cui queste notizie non vengono mai fuori. Senti, e comunque, come ci accennavi, la risposta della popolazione anche subito dopo, insomma, questa incursione nel cantiere è stata ferma, decisa e di massa. E dicevamo anche nei giorni scorsi che c'è stata una sorta di occupazione militare di Rissos, ma forse non solo di Rissos, da parte appunto delle forze antiterrorismo, con scontri. Beh, gli scontri, diciamo che ieri sera dopo l'incendio ci sono state perquisizioni e la polizia è arrivata in forze, con forze spropositate rispetto alla necessità e a quello che è il paese. C'è stato proprio uno stato d'assedio, e anche questa la mattina del 10, quando sono andati ad arrestarli, sono arrivati con queste forze dispiegate. La popolazione scende in strada e cerca di bloccarli all'inizio del paese con i copertoni. Ogni volta cercano di interferire con questi soprusi che fanno, e sistematicamente riempono tutto di lacrimogeni. C'è una pioggia di lacrimogeni, per cui il paese, insomma, viene messo un po' sotto sopra. Però ci sono continui cortei quasi ogni settimana, o davanti all'entrata della montagna dove dovrebbe essere dove c'è il cantiere, o a Salonicco i comitati di solidarietà. Nel resto della Grecia si sono creati un sacco di comitati di solidarietà, Atene, Arta, tutta la parte anche nord-est della Grecia, perché le miniere non saranno soltanto in Calcidica, interessano tutta questa parte, diciamo, sotto i Balcani, che arriva fino alla Turchia. Un'altra miniera è prevista in Turchia, in Romania. C'è una rete anche di tutte queste, di comitati di lotta, esiste una rete anche con chi sta all'estero, e le iniziative a tappeto ogni settimana, ogni giorno. Beh, questo mi sembra molto importante, anche perché qui da noi, fra l'altro, notizie su questa lotta non arrivano anche un po' distorte. Comunque ricordiamo che questa occupazione militare di Rissos ha portato, appunto, come dicevi tu, a una situazione anche di lancio di lacrimogeni fin dentro una scuola, perché si voleva interrogare una ragazzina di 15 anni. Ci sono state violazioni palesi anche della loro legalità, quindi con arresti fermi senza assolutamente nessun tipo di mandato, e poi prelievi forzati del DNA di queste persone, che hanno poi, dicono loro, portato all'arresto di questi due attivisti. Uno degli arrestati sembra che il suo DNA coincida con quello del passamontagna trovato su Alfiere, insomma. Poi queste prove del DNA, insomma, lasciano un po' il tempo che trovano, però a loro è bastato adesso per formulare queste accuse così, così pesanti. Senti, invece, insomma, le mobilitazioni, ci dicevi, io ho letto, forse appunto, sai, magari diceva domani e quindi può essere che c'era una data per un'altra, può darsi che non sia appunto domani, domenica, che sia stato stamattina, questo non è relativo, insomma. Comunque c'è anche questo sistema di Greco di portare gli arrestati in questura e lasciarli lì per giorni e giorni in attesa appunto della visita del magistrato. In questo caso qui le persone erano state prelevate anche mattina presto e rilasciate la sera. Nessuno sapeva esattamente dove fossero e che cosa stesse succedendo. Non gli hanno fatto telefonare né all'avvocato né avvisare, insomma, i familiari, nessuno. Sono stati scomparsi la mattina e ricomparsi la sera. Adesso per questi due arrestati ora non so di preciso dove si trovino, Beh, dai siti greci sembrava appunto che si trovassero tuttora nella questura di Salonicco, dove comunque si moltiplicano le iniziative, i presidi, ogni mattina insomma ci sono presidi di solidarietà. Sì, ma loro ricorda molto, cioè, insomma, per chi se lo ricorda, perché sono passati anni, proprio i tempi della dittatura, Kunda, come la chiamano loro, insomma. La situazione è abbastanza drammatica, il governo sta accusando tra l'altro il Syriza, che è il partito all'opposizione, di appoggiare queste azioni criminali, insomma, quindi sta isolando una parte del Parlamento in qualche modo. Sì, e c'è stato insomma un botta e risposta dal ministro della sicurezza per il cittadino, che è questo modo buffo con cui viene chiamato il ministro dell'interno, è un rappresentante locale di Syriza, dove appunto il ministro ha detto che non pensassero di fare come i galli di Asterix, e gli è stato risposto: e tu non fare come Giulio Cesare, insomma. Come Giulio Cesare, sì. E fra l'altro ha citato la lotta per la discarica di Keratea, che si è conclusa positivamente, speriamo che questo sia comunque definitivo, e che c'è il timore, appunto, l'ha detto chiaramente il ministro, che tutto finisca come proprio con Keratea. Ma secondo te, da quello appunto che tu puoi capire dai contatti con i compagni e le compagne in Grecia, che possibili sviluppi ci sono, anche alla luce appunto di questa solidarietà a livello nazionale che ci descrivevi? Ma lì, insomma, è un po' io farei anche un paragone magari con le lotte contro le nocività che ci sono qui in Italia, ma anche intorno a Roma, insomma, che ne so, l'incendio di Albano, Malagrotta e tutte. La solidarietà delle persone è dettata dal fatto che sono ormai consapevoli che a fronte magari di una miseria di stipendi e di posti di lavoro fantomatici, c'è invece in gioco la salute di tutti, dell'acqua, dell'aria che respiriamo, della terra che bene o male bisogna coltivare. L'opposizione della popolazione è forte. C'è appunto una solidarietà in tutta la Grecia, perché comunque versano adesso in condizioni in alcune zone proprio di povertà, e le persone sono tornate nei paesi e vivono comunque, chi è tornato nei paesi vive del sostentamento che proviene dall'agricoltura, dall'allevamento, e quindi non gli interessa, insomma, la devastazione, che qualcuno devasti il territorio e non possano più avere mezzi di sostentamento. Però il problema è gli interessi a livello mondiale su questa cosa, non è soltanto il governo greco che dà carta bianca, sono interessi per quanto riguarda l'oro, ma io più che l'oro direi c'è anche il fatto dell'estrazione del rame. Perché queste montagne che stanno lì, a parte la percentuale d'oro che è bassissima e che comunque per loro viene, come si dice, viene giustificata l'estrazione perché c'è un prezzo altissimo dell'oro, però contiene anche rame questa montagna, e il rame è prezioso forse quanto l'oro in questo momento, e per estrarre il rame vengono usate delle tecniche che non c'entrano niente con il cianuro. Il cavallo di battaglia della ditta è che non utilizzeranno cianuro per il lavaggio, insomma, del materiale per l'estrazione dell'oro, ma viene fatto con altre tecniche dove invece viene liberato arsenico, che pure è presente nel terreno, è presente in alte percentuali, ci sono le analisi, non analisi fatte da chiunque, analisi fatte dalla precedente ditta di estrazione, e da questa anche, sono pubbliche, c'è un'alta percentuale di arsenico, e queste metodologie che liberano arsenico sono vietate praticamente in tutto il mondo, tranne nei paesi dove accettano questa cosa pur sapendo qual è il rischio. Hanno chiuso miniere di questo tipo in Albania, in Cina recentemente anche le hanno chiuse perché libera arsenico nell'aria, nell'acqua, dappertutto. Sono tecniche altamente inquinanti. Certo. Sì, sì, sì, poi insomma sono devastazioni irreversibili, come dicevamo, per cui poi è un intero territorio che diventa praticamente contaminato e non più fruibile appunto per l'agricoltura e la zootecnia. Va bene, fra l'altro una notazione: fra le accuse c'è assolutamente appunto immotivato anche quella, a parte tentato omicidio, che appunto come dicevi dalle riprese delle stesse camere di sicurezza non stanno in cielo né in terra, ma sequestro di persona ci sembra che l'abbiano proprio operato le squadre antiterrorismo appunto dopo l'incendio in avanti. Io direi che possiamo concludere, ti ringraziamo moltissimo perché sei stata estremamente chiara e insomma ci ha fornito diverse informazioni importanti e speriamo che si possa anche arrivare chissà in futuro a un confronto, a un'unità di intenti tra tutte queste lotte. Certamente questa non è l'unica che c'è in Grecia in quest'ambito, anche se è quella più insomma più importante in questo momento, e le lotte che sicuramente si stanno sviluppando non solo nel nostro paese ma anche in altri paesi europei. Sarebbe importante anche insomma mettersi d'accordo e trovare appunto un'unità di intenti e di contatto quantomeno. Va bene, ti ringrazio ancora molto. Grazie a voi. E arrivederci. Ciao. Buona giornata. Anche a te. Ciao.